scena di cantina. Collegati ai colleghi che collegano la musica. Non siamo parroci, bigottiamo di tunica. Moriamo beccaci se ci togli la musa unica. Moriamo se vediamo chi la musica la pulica. Vita rustica e FP, l'acustica la mastica. La forza elastica rende la mia mente ostica. Come chi non scopa che mangia l'ostica. Colpisci mia mano di chi la perfezione aspica. Rapiscimi da sano dentro odea fantastica. Dei minimi ritmi di rime come soda caustica. Rimanimi come mine, minatorie del mio cuore. Magnanimi di mano delle rime FP e dottore. Svegliati, per arrivare impegnati. Svegliati, per arrivare impegnati. Svegliati, per arrivare impegnati. È lo stronzo che non crede in me. Fatti avanti che io rimango fino a sera. Quindi se non stai tranquillo amico fai una pera. Che chi non vuole saltare adesso te lo dico io che sclera. Io non parlo di balconi, tanto meno di coglioni che non hanno neanche due cannoni per la cena. Io non sono gangsta, mezzogiorno mangio pasta. Io non faccio forza con la testa per una catena. Sotto i piedi vedi bene che la casa trema. Autoproduzione come luce che ti acceca e ti uccide. Questa musica controlla anche lo stronzo che si incolla una poltrona. Che alla fine non decide un cazzo. Salto e poi balleggio con la musica che prendo di rimbalzo. Mangio rime come olive, non mi sento sazio. Se poi fratello non ti piace questa pace, mi dispiace, attaccati a sto cazzo. Svegliati, per arrivare impegnati. Svegliati, per arrivare impegnati. Svegliati, per arrivare impegnati. Svegliati, per arrivare impegnati. E se non ti va amico, quella è la tua strada. Vai a dare un'occhiata, questo è il suono che vale più di un'inchiappettata. Diamo una svegliata a questa fottuta serata. Visto che è un decennio che nessuno te l'ha data. La tua banca è differente, io la mia l'ho già bruciata. Sciopero per la tutela dei miei cacciatori. Ma nessuno ha fatto un cazzo dei lavoratori. E caro presidente adesso va a caga. Insieme alla danza che ti fa waka. Insieme a quella sottospecie di cantante che si ostina ancora a fare bada boom, bada boom, bada boom, bada boom. Faccia, adesso sono solo ma tra un po' saremo in tanti. Stammi a sentire che è il tempo di stare avanti. Piccoli ma giganti, tra falsi, torre e fatti. Testi, torri di eventi, adesso fermo e senti. Svegliati, per arrivare impegnati.